Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS. Ben ritrovati al primo appuntamento del 2017 con So Info, la rubrica che ogni settimana vi accompagna approfondendo i temi della salute della società con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Ed è proprio a quest'ultimi, le bambine e i bambini, che nelle prossime settimane rivolgeremo la nostra attenzione. Iniziamo oggi andando a conoscere il reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, che ci presenta il dottor Paolo Grotto, responsabile facente funzioni. L'unità operativa di pediatria di Treviso è una unità che svolge una attività di diagnosi e cura per i bambini affetti da patologie che hanno bisogno di un monitoraggio clinico prolungato e accertamenti che non sono eseguibili in regime ambulatoriale. L'attività della pediatria sono svolte in una attività di degenza con 25 posti letto e una attività di pronto soccorso pediatrico con a cui è associata una stanza di osservazione breve intensiva per i bambini che richiedono monitoraggio e cura di durata non superiore alle 36 ore. Non solo, ma questa unità operativa si rivolge ai pazienti pediatrici residenti nel territorio dell'ULS, ex ULS 9, cioè l'azienda ULS 9 di Treviso, ma attualmente anche con il nuovo cambiamento dell'organizzazione delle ULS su Brave provinciale fa da riferimento anche per pazienti complessi trasferiti dai reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Treviso, Conegliano, Castelfranco e Montebelluna, ma anche per gli ospedali della provincia di Belluno, quindi gestione di pazienti critici trasferiti da questi ospedali. Per quel che riguarda l'attività di pronto soccorso, questa è un'attività cospicua perché si rivolge alla patologia d'urgenza pediatrica con numeri che sono quelli di grosso modo 10-11.000 accessi all'anno, che rappresentano il 14% di tutti gli accessi in pronto soccorso, e di questi circa 1.500-1.600 vengono tenuti in osservazione breve intensiva. Per quel che riguarda invece l'attività di degenza, abbiamo circa 1.000 ricoveri all'anno, principalmente per patologie dell'apparato respiratorio, polmoniti, asma, bronchioliti, gastroenteriti e anche altre patologie più complesse come patologie neurologiche, encefaliti, patologie il diabete, patologie oncologiche come terapia di supporto. Ecco, questo è un po' l'attività che viene fatta a livello del reparto di degenza. Abbiamo una serie di ambulatori subspecialistici, tra cui che numero per ordine: l'allergologia pediatrica, la pneumologia pediatrica, l'ematoncologia pediatrica, l'endocrinologia e diabetologia pediatrica, la gastroenterologia, la nefrologia, l'infettivologia, la neurologia, la reumatologia e la fibrosicistica, che servono a prendere in carico a livello ambulatoriale tutte queste patologie che richiedono una gestione di tipo specialistico. Ecco, questo è un po' il nostro lavoro quotidiano. Abbiamo un reparto, per quel che riguarda i numeri del personale, 15 medici specialisti in pediatria, 40 infermieri professionali, 10 operatori sociosanitari e 4 operatori di segreteria. Abbiamo un neuropsichiatra infantile, abbiamo una psicologa, anzi scusa, due psicologhe che lavorano, una nell'ematoncologia e una nella fibrosicistica, e abbiamo numerose, diverse associazioni di volontariato che servono, che sono dedicate, ridurre, la sofferenza per i bambini ricoverati o in attesa nelle sale di ambulatorio, nelle sale d'attesa dell'ambulatorio, per ridurre l'impatto di sofferenza psichica del bambino che è il nostro ospite. Su Info, Salute e Società. Radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda USC. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.